Focus Economia. Con Deborah Rosciani. Buonasera a tutti da Deborah Rosciani, ci ritroviamo anche questa sera insieme per una nuova puntata di Focus Economia. Lo ricordo, siamo in questa versione estiva, quindi durata un'ora, ma il tempo è sufficiente per raccontare il succo della giornata economico-finanziaria. Anche oggi le notizie non sono mancate. Prima di tutto, il mercato ha una situazione, come dire, poco movimentata, perché i listini internazionali, le borse, ma anche il mercato obbligazionario sono in attesa della riunione di oggi, che per la verità è iniziata ieri, dalla Banca Centrale Americana, e stasera l'organismo guidato da Ben Bernanke deciderà sui tassi di interesse americani, che rimarranno sicuramente fermi nel corridoio già da tempo fissato tra lo 0 e lo 0,25%, ma in particolar modo attendiamo ancora una volta, e ne siamo quasi un po' tutti ossessionati, le indicazioni sul futuro della politica monetaria americana. In particolar modo il mercato attende di sapere se davvero a settembre Ben Bernanke comincerà a far mancare gli stimoli monetari statunitensi, comincerà a ridurre questo programma di acquisto mensile di titoli di Stato statunitensi in corso appunto da tempo. E poi domani toccherà a Mario Draghi. Mercati appesi alle banche centrali, commenteremo tutto questo tra un po' con un economista, con Mario Seminerio. Per quello che riguarda invece le altre notizie del giorno, ce ne sono tante, alcune arrivano da Siena, Monte dei Paschi. Abbiamo delle novità per quello che riguarda Mussari, Giuseppe Mussari, l'ex presidente di Banca Monte dei Paschi, che risulterebbe indagato dalla Procura di Siena anche per l'accusa di insider trading in relazione all'acquisizione di Banca Antonveneta. Nella sostanza, quando si avviò l'operazione di integrazione tra Monte dei Paschi e Banca Antonveneta, Mussari, in maniera un po' impropria, insomma, comunicò questa notizia prima che appunto l'operazione venisse formalmente concordata appunto ad alcune persone, politici appunto delle senese, ma anche al colosso finanziario JP Morgan, e quindi insomma c'è questo nuovo reato che viene contestato a Mussari. Cercheremo di capire appunto quali altre novità poi arrivano anche da Siena su questo argomento. Parleremo di Fiat ancora una volta. Ieri, ricorderete, abbiamo raccontato dei risultati di Fiat SPA che non sono stati accolti molto bene in borsa, perché c'è stata questa sorta di allarme per il lavoro appunto di Chrysler negli Stati Uniti. Oggi le cose sono andate diversamente per Fiat Industrial, che ha avuto dei risultati molto buoni, comunicati anche con grande soddisfazione da Sergio Marchionne, che ha detto: neanch'io mi aspettavo praticamente questi risultati, che hanno dell'incredibile. Il titolo è il migliore in assoluto in questo momento a Piazza Affari, guadagna il 3,44%, il listino è in rosso dello 0,25%, ma in realtà ancora tutta l'attenzione su Marchionne è concentrata appunto per altre ragioni, per questa sua affermazione ancora una volta molto dirompente che ha rilasciato ieri presentando ai giornalisti conti di Fiat SPA in Italia. Ha detto: investire è impossibile. Poi parleremo, per concludere nel corso appunto del nostro programma, parleremo anche dello IOR, la Banca Vaticana, e c'è una cosa interessante da raccontare. Da ieri è attivo il sito internet appunto della banca, e ci faremo raccontare dal collega del Sole 24 Ore Carlo Marroni, che segue le vicende del Vaticano oltre che dello IOR, anche quanti conti correnti sono stati attivati di recente su questa banca, e perché è così importante anche questa operazione di trasparenza, se vogliamo, anche tra tutte quelle auspicate da Papa Francesco appunto da parte della banca del Vaticano. E allora, tante cose da raccontare. 349-238-6666 il numero per i vostri SMS. Adesso andiamo alle altre notizie in breve. Come sempre con il dato sulle materie prime. L'oro oggi naviga intorno ai $1,300 l'oncia. Per quello che riguarda il petrolio, oggi a New York ha aperto a $103,57 al barile. Dati americani molto importanti perché sono monitorati molto attentamente dalla Banca Centrale Americana, che sulla base di questi decide se continuare nel suo enorme programma di stimolo monetario agli Stati Uniti oppure cominciare a ridurlo. Oggi è stato diffuso il dato sul prodotto interno lordo americano nel secondo trimestre, che è cresciuto dell'1,7%, più delle attese di Wall Street che erano per un più 1,5%. È stata però leggermente rivista la crescita relativa al primo trimestre all'1,8%. Gli analisti parlano, per quello che riguarda il secondo trimestre dell'anno, di un'accelerazione inaspettata e sottolineano come questo dato rafforzi la convinzione, che la Federal Reserve cominci davvero presto a ritirare le sue misure straordinarie di sostegno all'economia. E per le 8 ore italiane, appunto, aspettiamo la decisione della Federal Reserve sul costo del denaro, i tassi che dovrebbero comunque rimanere invariati nel corridoio fra lo 0 e lo 0,25%. Andiamo in Europa. È stato raggiunto un accordo a livello tecnico, chissà cosa vuole dire esattamente, fra autorità della Romania e gli staff di Commissione Europea e Fondo Monetario Internazionale sul programma economico, che può essere sostenuto da un sostegno, appunto, Fondo Monetario Internazionale per 2 anni per la bilancia dei pagamenti da parte dell'Unione Europea. Si tratta di un totale di 4 miliardi di euro equamente divisi fra le due istituzioni. Si tratta, fanno sapere, di un'assistenza precauzionale, ma in ogni caso è un'altra iniezione finanziaria ad un altro paese, appunto, in difficoltà. Vi anticipo di nuovo le notizie sulla Banca Vaticana, ma non solo, che approfondiremo nella seconda parte del programma. Papa Francesco ha rimosso in un colpo solo i vertici della Chiesa Cattolica Slovena, accettando le dimissioni dell'arcivescovo di Lubiana, Monsignor Anton Stress, e di quello di Maribor, Monsignor Marian Tursnek. Entrambe le rinunce sono state presentate per il comma 2 del canone 401 del diritto canonico, quindi per grave causa, che non è difficile identificare nel testo finanziario della diocesi di Maribor, che ha debiti per oltre 800 milioni di euro. Intanto, vi dicevo, è attivo da oggi il sito internet dello IOR, della Banca Vaticana, al centro di una profonda riforma dopo l'avvento di Papa Francesco, e in concomitanza con la divulgazione di questa notizia sono stati comunicati anche i risultati dello IOR, che alla fine dello scorso anno ha realizzato un utile netto di 86,6 milioni, triplicato rispetto all'anno precedente. Quindi cercheremo di capire poi allora qual è lo stato di salute della Banca Vaticana. Oggi tanti dati relativi alla disoccupazione riguardano l'Italia, ma riguardano anche l'Eurozona. Per combattere la disoccupazione ora tocca ai governi fare le riforme, ad esempio detassare il lavoro e migliorare i servizi per l'impiego. Così la Commissione Europea ha commentato i dati di oggi. La disoccupazione è definita inaccettabilmente elevata per Bruxelles, che dice anche: le cure esistono ma non sono miracolose, quindi i governi devono muoversi in fretta. Quali sono questi dati? Allora, cominciamo con l'Europa. La disoccupazione nell'area euro è al 12,1%, stabile rispetto a maggio, ma con un aumento ovviamente molto forte rispetto all'11,4% dello stesso periodo dello scorso anno. In Europa il livello di disoccupazione giovanile sale al 23,9%, dal 23,8%. Tra i paesi dell'intera Unione Europea i livelli più elevati si registrano, come era anche immaginabile, in Grecia, in Spagna. All'opposto, i più bassi sono in Austria, in Germania e in Lussemburgo. Andiamo al dato italiano, invece diffuso oggi da Istat. La disoccupazione complessiva a giugno si è fermata al 12,1%, la stessa percentuale dell'Unione Europea, con un piccolo passo indietro su maggio, in calo dello 0,1%. Si resta però piuttosto alti in termini di aumento, appunto, su base annuale. Dallo scorso anno c'è un aumento, appunto, dell'1,2%. Con giugno la disoccupazione varca la soglia del 12% per la terza volta consecutiva. Drammatica la percentuale per quello che riguarda la disoccupazione giovanile, che sale ancora e sfonda il tetto del 39%, portandosi al 39,1%. A giugno gli occupati sono diminuiti dello 0,1% rispetto a maggio, con 21.000 persone in meno al lavoro, e dell'1,8% su base annua, con 414.000 occupati in meno rispetto ad un anno fa. Abbiamo avuto il via libera oggi da parte del Senato alla garanzia dello Stato a partire dal 1 gennaio 2014 per consentire lo sblocco, secondo le stime, di altri 20 o almeno 25 miliardi di euro di debiti della pubblica amministrazione per i pagamenti di crediti appunto nei confronti delle aziende. Si tratta di un emendamento al decreto lavoro presentato dal PD. Arriva il nuovo redditometro, attenzione perché ne parleremo nei prossimi giorni anche a Salvadanaio. Il nuovo redditometro acchiappa evasori, che tiene conto di nuovi e più ricchi dati per ricostruire il reddito dei contribuenti, ma è prevista anche una tolleranza del 20% rispetto al dichiarato, un doppio contraddittorio con il contribuente e l'uso solo di spese e dati certi senza tenere conto, come era appunto inizialmente prefissato, delle cosiddette medie Istat. Non sono d'accordo con Marchionne, che ritiene che oggi sia impossibile fare impresa in Italia. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Enrico Giovannini, intervenendo a Radio 1. Ci sono molte imprese che in queste condizioni stanno continuando ad investire, a crescere, a creare profitto e posti di lavoro, e questo nonostante le indubbie difficoltà. Il PD è radicalmente contrario ad ipotesi di privatizzazioni delle società a partecipazione statale. Vi ricordate, lo scorso 2 giorni fa l'aveva detto addirittura il premier Letta dalla Grecia, e aveva detto che in autunno il governo era pronto, sarebbe stato pronto appunto a partire con un grande programma di privatizzazioni. Oggi invece un partito che sostiene il governo smentisce, anzi esprime la sua contrarietà. Le privatizzazioni appunto al centro di questa manifestazione, appunto a questa dichiarazione, sono quelle di eventualmente Eni, Finmeccanica, Enel e le altre partecipate statali. Questa dichiarazione appunto era di Stefano Fassina, viceministro dell'economia. Oggi l'Istat ha diffuso anche i dati sull'inflazione, che è scesa a luglio all'1,1% dall'1,2% della precedente rilevazione, e la crescita dei prezzi torna a segnare un lieve rallentamento, risultando dimezzata a confronto con gennaio. Il livello di luglio si riporta ai valori di aprile e maggio, eguagliando il minimo da dicembre 2008, però il carrello della spesa è più caro perché è salito al 2% e rincarano, anche questo appunto il dato lo evidenzia molto bene, tutti i carburanti. Lasciamo le notizie in breve, andiamo al primo approfondimento di oggi, molto veloce perché tra un po' inizia una conferenza stampa a Siena. Andiamo appunto a parlare delle ultime novità di Banca Monte dei Paschi. Allora, l'ex presidente di Banca Monte dei Paschi, Giuseppe Mussari, risulta indagato dalla Procura di Siena anche per l'accusa di insider trading, come se non ne avesse abbastanza, in relazione all'acquisizione di banca Anton Veneta. Qual è la portata di questa novità? L'inviata a Siena del Sole 24 Ore, Sara Monaci, buonasera. Sì, buonasera. Allora, Mussari ha a carico questa nuova appunto accusa e al centro delle indagini della Procura di Siena. Qual è oggi il filone che ha portato appunto a questa novità? Allora, in realtà oggi si sta chiudendo il primo dossier di indagine, quello relativo appunto all'operazione Anton Veneta, la banca padovana che è stata acquisita nel 2008 con delle irregolarità patrimoniali secondo gli inquirenti. Si chiude quindi questo fascicolo e quindi nel dispositivo viene quindi finalmente evidenziato con chiarezza quali sono tutte i reati e le accuse a capo di questi 9 indagati, per cui verrà probabilmente chiesto il rinvio a giudizio. Ecco, su Mussari c'è questo aspetto nuovo che è l'insider trading, già accusato di ostacolo alla vigilanza, manipolazione del mercato e falso in prospetto e falso in bilancio. L'insider trading significa che, avendo comunicato preventivamente l'operazione nel 2007 a politici locali, si parla del presidente della provincia, dell'ex sindaco, avrebbe comunque in qualche modo utilizzato una posizione di vantaggio da cui avrebbe ricavato degli interessi. Ora è quello che ci chiariranno i PM che stanno appunto per fare la prima vera conferenza stampa dopo mesi di indagine. Ci saranno i PM e anche la Guardia di Finanza, ricordo, del Nucleo Valutario di Roma. Allora, certo che ovviamente operazioni di questo tipo non devono essere comunicate a nessuno se non a diretti interessati, appunto, prima che vengano finalizzate e formalizzate. Però ecco, diciamo, un conto ormai è magari siamo no, alla fine, sì, quindi... certo. No, stavo dicendo appunto la rilevanza dell'insider trading, quantomeno in quel momento. Un conto è comunicare una notizia del genere, come dire, al sindaco di Siena, un conto è magari comunicarla a JP Morgan, che è una grande banca di investimento e che chiaramente sulla base di una notizia di questo tipo può chissà operare quali tipi di scelte, appunto. Non lo so se sei d'accordo, Sara, appunto, con questa visione. Sì, anche se appunto i retroscena e in particolare quali sono stati i vantaggi di questo reato di insider trading dovranno essere chiariti con più precisione proprio tra pochi minuti. Il ruolo di JP Morgan devo dire che è piuttosto ambiguo, nel senso che JP Morgan è già indagata, e questo lo sappiamo anche questo da oggi, formalmente da oggi, è indagata la società con i responsabili legali per un illecito amministrativo, cioè anche qui ostacolo alla vigilanza per non aver comunicato una operazione complessa, che è quella l'operazione cosiddetta Fresh, per Anton Veneta. Quindi il ruolo di JP Morgan, come del resto in questa vicenda anche di altre banche straniere, è sicuramente da capire. Quale sia poi il rapporto anche qui tra Mussar e JP Morgan rimane comunque un'incognita ed è un passaggio molto delicato dell'inchiesta, perché questa inchiesta riguarda sì il Monte dei Paschi, ma sullo sfondo vorrei ricordare ci sono delle importanti banche internazionali che hanno avuto, secondo gli inquirenti, un ruolo di primo piano. JP Morgan, ma anche Bank of New York, e per quanto riguarda i derivati anche Nomura e Deutsche Bank. Ecco, di chi sarà la conferenza stampa che inizia tra poco, Sara? Allora, sono dei procuratori titolari dell'inchiesta, sono Nastasi, Natalini e Grosso, e sarà presente anche il nucleo valutario della Guardia di Finanza di Roma, quindi il generale Bottillo e credo anche il colonnello Bianchi, che ci chiariranno un po' tutti gli aspetti tecnici. Ti lasciamo perché inizia tra 8 minuti. Sì. Grazie a Sara Monaci. Buonasera, grazie per essere stata con noi. Nel frattempo, oggi il titolo Monte dei Paschi non è sembrato particolarmente turbato da queste novità, anche perché ormai è intrapreso e avviato il nuovo corso, non senza problemi, perché sapete bene che nei giorni scorsi l'Unione Europea ha messo anche il faro, ha puntato il faro sul piano di ristrutturazione appunto avviato dai nuovi vertici dell'istituto senese, ha chiesto delle correzioni in realtà, e il titolo è oggi in borsa appunto perde lo 0,53%. E allora le novità da Siena le abbiamo raccontate molto rapidamente, adesso invece ritorniamo agli scenari economici nazionali ed internazionali, soprattutto con l'attesa per le riunioni, appunto una è già in corso, della Federal Reserve e quella di domani della Banca Centrale Europea. Di nuovo insieme, che è successo? C'è un cursore forse dal mixer, siamo tutti un po' stanchi. Pietro, cosa vuoi fare? Siamo tutti in attesa di prenderci qualche settimana di ferie. Lo dico anche l'ascoltatore, l'ascoltatrice preoccupata del fatto che io sia qui al posto di Sebastiano Barisoni. Marina, cosa le devo dire? Anche lui, poveretto, ogni tanto qualche feria deve farla. Siccome dobbiamo fare tutti, e qualche volta quando si va in ferie dovete appunto sopportare il sostituto di turno. E in tutto questo, però, senza appunto perdere tempo con le sciocchezze, ringrazio e saluto per essere con noi Mario Semineri, economista, titolare del blog fastidio.net, autore del libro La cura letale, chi sta facendo fallire l'Italia e come l'Europa sta peggiorando le cose. Questo è un po' il presupposto della nostra conversazione di stasera. Semineri, buonasera, grazie. Grazie, buonasera. Allora, le banche centrali. La Banca Centrale Americana è riunita da ieri. E tra poco, alle 8 ore italiane, appunto, il Federal Open Market Committee, che è il braccio operativo della Federal Reserve, farà sapere cosa farà sui tassi di interesse. Quasi niente, siamo quasi certi appunto che non interverrà sul costo del denaro. Domani tocca alla Banca Centrale Europea, si ripeterà lo stesso copione, nessun tipo di intervento sul costo del denaro, che rimarrà fermo allo 0,5%. Ma anche se sappiamo che non interverranno, Seminerio, come sta capitando molto frequentemente da qualche mese a questa parte, siamo appesi in ogni caso alle banche centrali. Non è che saremo un po' troppo ossessionati? No, beh, diciamo che in questa fase, che purtroppo è una fase che dura da parecchi anni, l'azione delle banche centrali nel bene e nel male è assolutamente imprescindibile, quindi probabilmente l'ossessione deriva da alcuni tentativi di esegesi, questa realmente portata all'estremo, che si leggono anche sulla stampa specializzata, quindi c'è una misura in ogni cosa, non parlerei di ossessione, ma purtroppo o per fortuna, a seconda dei casi, la dipendenza dell'economia globale dalle banche centrali è reale e non da oggi. E l'abbiamo visto disperatamente anche appunto nell'ultimo anno, perché se non fosse stato per questo incredibile intervento avviato da Mario Draghi esattamente un anno fa, lo spread, il differenziale fra Italia e Germania non si sarebbe ridotto ai livelli a cui siamo ritornati appunto in questo periodo. E purtroppo però ancora tutto questo interventismo delle banche centrali è seminario, questo lei lo dice più spesso nei suoi interventi anche sul Fatto Quotidiano, appunto non si è trasmessa all'economia reale. Teoricamente l'obiettivo finale sarebbe quello. Mi dice che cosa sta succedendo, per quale motivo ancora è solamente al circuito finanziario che si trasferisce l'effetto degli interventi delle banche centrali, ma a quello dell'economia reale non arriva nulla? Sì, purtroppo le banche, i sistemi bancari in Europa sono ancora chi più chi meno, diciamo, salvo le solite eccezioni come la Germania, sono in una situazione di credit crunch, cioè le banche devono ridurre il proprio grado di leva finanziaria, cioè di indebitamento, hanno ancora rapporti tra prestiti e depositi che sono piuttosto squilibrati, e quindi anche nelle more del percorso di avvicinamento verso Basilea 3 e anche dei prossimi imminenti stress test della Banca Centrale Europea, nel dubbio si tagliano i prestiti, si tagliano gli attivi, e questo dato determina un impulso recessivo che si somma a quello di politiche fiscali restrittive. Quest'anno con tutta probabilità l'impulso fiscale non sarà più restrittivo in Eurozona, diciamo che volge verso la neutralità. Potrebbe anche essere moderatamente espansivo, ma lo vedremo. La verità è che ci sono paesi come il nostro, ma non solo, in cui il sistema bancario, che ha, diciamo, da recuperare determinate situazioni, tende, diciamo, a prestare meno del dovuto. Quindi che cosa dire della famosa frase di Draghi, che è stata assolutamente miracolosa per tagliare le unghie ad una certa speculazione, dimostrando che quando una banca centrale opera o può operare con le mani slegate non c'è speculazione che regga. Tuttavia la verità è che nel sottofondo, diciamo al di sopra di questo ombrello protettivo di Draghi, la situazione dell'economia reale ha continuato a deteriorarsi, e questo è un punto purtroppo molto grave, molto importante, e che dovrà essere affrontato a livello politico, perché questo non si può continuare ad attribuire alla Banca Centrale Europea, che ha, come sappiamo, delle fortissime limitazioni, peraltro di natura politica, perché gli statuti nascono dalla politica, certo. Non si può continuare a demandare alla Banca Centrale Europea questo ruolo di supplenza della politica, perché la corda sta per spezzarsi. Questo mi pare un dato oggettivo. Certo, situazione che naturalmente invece è tutta completamente diversa negli Stati Uniti, dove la cinghia di trasmissione funziona talmente bene al punto che il prodotto interno lordo del secondo trimestre di quest'anno in America è cresciuto ancor più delle attese, più 1,7%, e non è una percentuale questa appunto da trascurare, magari vedessimo queste cifre appunto da quest'altra parte dell'oceano, seminario. Chiaramente la Fed è assolutamente alle mani slegate sotto ogni profilo, non dimentichiamo che ha il doppio mandato, no? Stabilità dei prezzi compatibile con la crescita dell'occupazione, e questo è già una differenza assolutamente fondamentale, il motivo per cui sicuramente dobbiamo provare noi europei una grande invidia per quello che è il sistema della Fed. Il dato di oggi è positivo, perché dimostra che effettivamente gli Stati Uniti stanno reggendo bene l'impatto restrittivo di politica fiscale, perché negli Stati Uniti la politica fiscale quest'anno è diventata restrittiva, come sappiamo, per via dei tagli automatici del cosiddetto sequester, e questo determina praticamente che il paese stia reggendo molto bene, ma anche il dato che è uscito oggi di creazione di occupazione privata, no, con 200.000 nuovi assunti. Sì, l'agenzia ADP, sì. Esatto, dell'ADP è sicuramente un dato positivo, e quindi credo che la Fed procederà a partire da settembre con la progressiva riduzione degli acquisti, ecco, di attivi finanziari. Ci spiega a beneficio dei nostri ascoltatori, lo hanno sentito tante volte ma magari qualcuno sta raccogliendo appunto questo commento solo oggi per la prima volta, in cosa si dovrebbe concretizzare questa iniziativa? In questo momento appunto ricordiamo quali sono le cifre dello stimolo monetario americano, noi lo definiamo in sintesi sempre così, quanti titoli di Stato acquista mensilmente la Banca Centrale Europea e come ha in programma di ridurre questo piano d'acquisto, il tapering, no? Tapering è la progressiva, diciamo, fuoriuscita dall'acquisto di questi attivi, che sono treasury e obbligazioni ipotecarie, che la Fed compra ogni mese nella misura di 85 miliardi di dollari, andrà progressivamente a scalare. In questo momento il consenso degli analisti e del mercato è per una conclusione di questi acquisti alla metà del 2014. Sappiamo che questo ha provocato qualcosa di simile a delle ondate di panico il mese scorso, sì, sui mercati, no? Con fuoriuscite dai mercati obbligazionari e anche con fuoriuscite peraltro dai mercati emergenti, no? Perché siccome tutto si tiene, i flussi sono globali, c'è stato anche questo deflusso che dai paesi emergenti che invece avevano enormemente beneficiato e di conseguenza ora si trovano, in precedenza avevano già un quadro congiunturale relativamente deteriorato e ora si trovano, ad esempio, citiamo il Brasile per tutti, che poi ha delle problematiche specifiche, a dover alzare i tassi per difendere il cambio, che si è deprezzato enormemente, in un momento in cui però l'economia si sta fermando. E questa è una situazione oggettivamente di stagnazione in cui i paesi emergenti, sommati al fatto che la Cina, come sappiamo, sta cambiando progressivamente il proprio modello economico, sta tentando di cambiare il proprio modello economico, no? Da basato esclusivamente sugli investimenti, basato sui investimenti più che esportazioni, passato sui consumi, sarà un processo lento, non esente da rischi e da incidenti di percorso, sarà abbastanza doloroso, nelle more di questo processo di conversione esistenziale la Cina potrebbe anche temporaneamente smettere di essere un motore di crescita globale e quindi questo cosa determina? La Fed è consapevole di tutti questi rischi, non a caso Bernanke, e non solo Bernanke, ha cercato di rassicurare i mercati dicendo guardate, noi adesso facciamo il tapering, cioè usciamo progressivamente dagli acquisti di Treasury e di Mortgage, però attenzione, questo non vuol dire che noi a metà del 2014 stringeremo automaticamente il tasso ufficiale di interesse, tutt'altro. Questa è la cosiddetta forward guidance, no? Cioè la comunicazione e la policy di comunicazione da parte delle banche centrali, che tra l'altro sta per essere adottata anche da Draghi e anche dalla Bank of England, la Bank of England ovviamente con un numero di gradi di libertà superiore a quello di Draghi per i noti motivi, ma l'idea è quella di dire ai mercati attenzione perché non stiamo stringendo nulla, stiamo lentamente normalizzando, ma è tutto subordinato e condizionato ai dati che usciranno. Certo. Se questi dati non supporteranno l'ipotesi di una ripresa, noi non stringeremo alcunché. Nella fattispecie, per esempio, anche la disoccupazione statunitense, adesso diciamo il programma di tapering è ancorato a questo obiettivo del 6,5%, potrebbe ridurlo, secondo lei, Bernanke? L'avevano rialzato al 7, per quanto riguarda la forward guidance potrebbero abbassarlo al 6,5. L'importante, a mio modo di vedere, è che non creino troppo frastuono di comunicazione, perché come lei sa benissimo, l'incertezza è un veleno per i mercati, nell'incertezza si vende, nell'incertezza succedono cose piuttosto sgradevoli. È importante che la Fed, con questa operazione che sicuramente non ha precedenti, faccia una politica di comunicazione molto saggia e non cacofonica come invece purtroppo siamo abituati a sentire. Benissimo. In Europa. Domani ci ritroveremo a commentare appunto anche la modalità stasera di comunicazione che uscirà dalla riunione della Federal Reserve. Grazie Mario Seminerio, buona serata. A voi, buonasera. Siamo in grandissimo ritardo, la prima pausa pubblicitaria, poi torniamo con la borsa tra poco. Focus Economia. Eccoci ritrovati in diretta, ancora buonasera da Deborah Rosciani. Allora, sono le 17:37 in questo preciso istante, è tempo di raccontarvi la giornata di borsa. Eleonora Micheli, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Meno 0,37% in chiusura per Milano, andiamo a vedere le altre borse europee, Parigi più 0,15, Francoforte più 0,06, Londra in rialzo di un punto, Wall Street invece rimacina passi avanti, Dow Jones più 0,48%, Nasdaq più 0,55%, Standard & Poor's più 0,52%, chiaramente qua mercato americano oggi brinda il dato sul PIL del secondo trimestre più 1,7%. Andiamo però a Piazza Affari, i temi del giorno. Anche oggi una giornata ricca di trimestrali, appunto Eleonora, ti chiederei di lasciar fuori Fiat Industria perché ne parliamo tra un po', bene A2A e tutte le altre come sono andate? Sì, guarda, oggi è stato un continuo di conti trimestrali o semestrali e A2A ad esempio ha registrato un progresso del 2,19%, i conti sono stati in miglioramento, così come sono stati in miglioramento quelli di Autogrill che sono piaciuti al mercato, che così ha premiato l'azienda con questo progresso dell'1,59%. Parmalat invece ha accusato nel giorno anche dell'annuncio dell'operazione in Brasile un calo dello 0,4%. 1%, ma poi c'è stata anche Snam che ha comunicato i conti e ha fatto più 0,8%. Allora, andiamo a vedere invece, direi anche oggi è il caso appunto di monitorare un po' la giornata di Mediaset. Eleonora, poi andremo anche ai ribassi più pesanti, perché effettivamente poi soprattutto sul finale se ne sono concentrati alcuni. Oggi Mediaset in questa nuova giornata snervante per l'attesa della decisione della Cassazione? Certo, oggi i titoli hanno perso l'1,9%, ormai si muovono in modo, passatemi il termine, isterico. Ieri erano andati su, il giorno prima avevano perso punti, ovviamente si muovono un po' con il mercato, ma c'è grande attesa, inutile dirlo, per la decisione della Consulta. Ieri in tarda serata abbiamo avuto anche le indicazioni delle richieste dell'accusa relativamente alla decisione della Consulta, che ha confermato appunto la condanna per Silvio Berlusconi e ha chiesto semmai che sia rivista la condanna relativamente al fatto che non rivesta ruoli pubblici. Mm-hmm. Allora, andiamo invece ai fatti del giorno in termini negativi. Qua Telecom meno 6%. Allora, stamattina sul mercato circolava l'indiscrezione che il gruppo fosse pronto a chiedere appunto un aumento di capitale. La società ha smentito, ma mi pare che il mercato non si sia tanto convinto di questa smentita. No, non è tanto convinto, anche perché in verità la società, guardando bene, ha smentito che domani nel corso del consiglio di amministrazione saranno prese decisioni relativamente all'aumento di capitale, ma non ha smentito in assoluto. Poi domani si teme che la semestrale purtroppo sia in peggioramento, anche il consensus che circola, cioè la media praticamente di tutte le previsioni degli analisti, indicano conti in peggioramento sia per quanto riguarda la redditività sia per quanto riguarda i ricavi, ma soprattutto sempre il Messaggero ha indicato che probabilmente il consiglio di amministrazione domani metterà a bilancio delle svalutazioni per 1,5 e 2 miliardi, svalutazioni che poi porterebbero eventualmente alla necessità di un aumento di capitale. Insomma, nel dubbio evidentemente gli operatori hanno deciso di stare alla larga dalle azioni che quindi inesorabilmente continuano a perdere quote e si sono portate ormai ai minimi di 0,5 euro. Allora, sì, mezzo euro praticamente, 50 centesimi tondi per un'azione Telecom, ma oggi anche la Popolare dell'Emilia Romagna, meno 4,83%, quando le giornate sono storte per il settore bancario, le popolari devo dire che ne risentono sempre un po' più delle altre. Eleonora. Sì, poi Fitch, ricordiamo che nei giorni scorsi aveva rivisto al ribasso il rating su diversi istituti, tra questi anche la Popolare dell'Emilia Romagna, e lei non si è più ripresa, anzi in sole tre sedute la Popolare dell'Emilia Romagna ha lasciato praticamente sul parterre il 10% del proprio valore. Allora, Diasorin meno 3, Prismian meno 3, Mediaset ne abbiamo già parlato, meno 1,91%, Pirelli meno 1,79%, c'è un ascoltatore che molto gentilmente chiede: gradirei avere più spesso la quotazione del titolo Eni, lo accontentiamo, meno 0,30 a 16,61 euro. Per quello che riguarda Eni, adesso non vorrei metterti in difficoltà, Eleonora, abbiamo notizie su quando diffonderà i risultati trimestrali, visto che le consorelle lo hanno già fatto, Saipem e Snam? Cerchiamo al volo. Vabbè, ti lascio cercare, ma non c'è fretta, non ti preoccupare, era così, so che ti ho messo in difficoltà, d'altronde non lo so neanche io. Arriveranno presto, probabilmente. Senti, oggi c'è stato un debutto a Piazza Affari, così, un po' un debutto estivo, com'è andato? Allora, i titoli erano partiti molto bene. Innanzitutto si parla di debutto sull'AIM, i debutti ultimamente sono solo su questo mercato relativo alle piccole e medie aziende. Si è trattato di Digital Magics, un'azienda che investe in start-up, cioè in società appena nate che evidentemente hanno dei business interessanti e magari nuovi. I titoli erano partiti bene, purtroppo hanno chiuso in calo dello 0,13%, quindi non è stato un gran debutto, però vedremo prossimamente come... Vabbè, insomma, sempre meglio che una bella batosta in borsa, perché qualche volta il mercato è anche un po' strano per come reagisce appunto alle nuove quotazioni. Era andata meglio alla società di Apple Elkan, appunto, Italian Independent. Grazie Eleonora per essere stata con noi, buona serata. Buona serata. Su Eni saremo più precisi domani, probabilmente, lo dico a me e te. Allora, adesso abbiamo terminato appunto con la giornata dei mercati, siamo pronti per parlare di Fiat? Sì, e no, pensavo Pietro che partisse un'altra sigla. Beh, eccoci qua, vedi che sono accontentata. Io ho bisogno di questo accompagnamento musicale per dare il cambio di argomento. Parliamo di Fiat, ne abbiamo parlato a lungo ieri. E tra l'altro scherzando con il collega del Sole 24 Ore, Andrea Malan, che saluto. Andrea, buonasera anche stasera. Buonasera a tutti. Avevamo proprio detto, anzi l'aveva detto lui, non ne dubitate perché tanto domani troveremo il modo per ritornare sull'argomento. E neanche a dirlo, appunto, è arrivata questa dichiarazione molto importante, non è la prima volta che ne rilascia di questo tipo, appunto di Sergio Marchionne, che chiaramente è un po' anche punzecchiato, come sempre succede, prima dagli analisti e poi dai giornalisti, ha detto qua in Italia investire è impossibile. Insomma, continua a preparare il terreno per una sua uscita definitiva dall'Italia, Marchionne. Insomma, qual è stato il senso di questa nuova dichiarazione? Poi, Andrea, naturalmente parleremo anche dei conti di Fiat Industrial, che sono più importanti. Sì, la dichiarazione di ieri era, di Marchionne, era abbastanza relativamente limitata come diciamo ambito. Lui si riferiva alla recente sentenza della Corte Costituzionale che ha cancellato in parte l'articolo 19 dello Statuto dei Lavoratori e quindi obbligherebbe l'azienda ad accettare anche, ad ammettere alla rappresentanza sindacale anche i sindacati che non firmano il contratto aziendale. È in base alla vecchia versione dell'articolo 19 che la Fiat aveva finora escluso la FIOM da alcune rappresentanze con conseguente battaglia legale in una serie di tribunali che più o meno i nostri ascoltatori conoscono. Sì. Tra l'altro dopodomani la Fiat dovrebbe incontrare Maurizio Landini della FIOM, che ha inviato qualche settimana fa una lettera al Lingotto proprio per cercare di riaprire un dialogo. Allora Marchionne ieri ha lanciato di nuovo, appunto stimolato agli analisti, questa affermazione secondo cui se rimangono queste condizioni industriali, appunto di relazioni industriali, non si può investire in Italia, perché dice noi praticamente investiremo in Italia non soldi guadagnati qua, perché in Italia non guadagniamo soldi, ma soldi guadagnati all'estero, e allora dobbiamo essere sicuri che si possano governare le fabbriche in qualche modo, quindi era abbastanza limitata. Poi oggi abbiamo visto che ha risposto da un lato il ministro Giovannini del lavoro dicendo che non è d'accordo, che in Italia centinaia di imprese investono, lavorano, fanno profitti eccetera. È intervenuto anche da Mosca il presidente Confindustria Squinzi dicendo con una nota diciamo più ottimistica, dicendo che bisogna trovare il modo di risolvere i problemi e assicurare appunto la continuazione degli investimenti. Ci sono le polemiche politiche consuete che sono sempre venute fuori negli ultimi mesi dopo dichiarazioni di questo tipo di Sergio Marchionne. Certo è difficile intravedere un legame diretto e immediato tra i problemi specifici del gruppo Fiat in questo momento in Italia, che sono problemi di mercato, sono problemi di redditività, e il cambiamento delle relazioni industriali, che sappiamo tutti essere un problema che purtroppo si trascina da decenni. Indubbiamente è un fattore negativo sulla competitività non solo di Fiat ma di altre aziende italiane. È un problema che tutti auspichiamo che venga risolto. Marchionne ieri si è un po' lamentato che il governo non si sia ancora dato da fare, diciamo, dopo il suo primo appello, dopo la sentenza della Corte Costituzionale, ma è chiaro che in due settimane si può fare poco. Senti Andrea, ti chiedo solo un minuto di pazienza, andiamo a suggerimenti perché in viaggio, poi ti rivolgo con me per una domanda sui conti di Fiat Industria, perché se quelli di Fiat SPA, come abbiamo visto ieri, sono molto condizionati chiaramente dall'attività di Chrysler negli Stati Uniti, per i titoli Industrial, per il gruppo Industrial invece c'è il condizionamento di Case New Holland. A tra poco. Focus Economia. Allora Andrea Malan, per quello che riguarda i risultati di Fiat Industrial, effettivamente oggi commentandoli Marchionne ha detto sono eccezionali, sono davvero così buoni? C'è stato un aumento sia dei ricavi che dell'utile operativo che dell'utile netto nel secondo trimestre, un aumento che è derivato, come hai detto tu, principalmente da CNH, la società basata in Olanda ma principalmente attiva negli Stati Uniti, che produce macchine agricole, macchine movimento terra. Diciamo che è un po' una situazione, come detto, simile al gruppo Fiat SPA, cioè è a trazione americana in questo momento. Il mercato americano va bene, si sono vendute un sacco di macchine agricole perché c'è una ripresa economica negli Stati Uniti. Iveco invece, che produce camion ed è attiva soprattutto in Europa, soffre, come la Fiat, la crisi dei paesi europei, soprattutto dei paesi del sud come l'Italia, la Spagna, la Francia, in cui è particolarmente forte, e Iveco ha visto quindi l'utile operativo praticamente azzerato, da 126 milioni di euro dell'anno scorso a 1 milione quest'anno. L'azienda, nel corso della conference call che c'è stata un'oretta fa, si è detta fiduciosa su comunque una una ripresa e una capacità di miglioramento dei conti nella seconda parte dell'anno, infatti ha mantenuto le stime di profitti e di margini per l'intero 2013. Sappiamo, tra l'altro, lo ricordiamo, che Iveco, che Fiat Industria e le CNH sono nel corso di un processo di fusione che dovrebbe essere completato, ha detto Marchion, entro settembre, quindi entro la fine di settembre avremo una nuova società che si chiamerà CNH Industrial, che sarà quotata al New York Stock Exchange, sì. Principalmente a Wall Street, poi con quotazione secondaria anche a Milano. Ah, ecco, con che nome? Con lo stesso nome, secondaria, che cosa significa? Lo stesso nome, certo. Sì, sarà sul listino principale. Il listino principale sarà a Wall Street, certo. Ho capito. Andrea, grazie per essere stato con noi, non abbiamo altro da aggiungere appunto sulle dichiarazioni di Sergio Marchionne, grazie e buona serata. Arrivederci. Allora, adesso ci fermiamo, no, non ci fermiamo, per dare appunto un nuovo cambio, e qui chiedo ed esigo una musica differente, naturalmente, perché andiamo a vedere quali sono le notizie delle ultime ore a proposito della finanza vaticana. Vabbè, insomma, che tecnici scadenti che abbiamo oggi, qui ci voleva qualcosa di più solenne, più celebrativo, per introdurre appunto le novità che arrivano dallo IOR, però in realtà, siccome è una novità molto moderna, e allora ci va bene anche questa colonna sonora. Intanto buonasera Carlo Marroni, collega inviato ed editorialista anche del Sole 24 Ore. Carlo, buonasera. Buonasera, buonasera a te e a voi. Allora, è attivo da oggi il sito internet della Banca Vaticana, che, come è noto, appunto è al centro di una profonda riforma dopo l'avvento di Papa Francesco e altre precisazioni, appunto, il pontefice le ha fatte anche nei giorni scorsi, come ricorderete, in questa conversazione del tutto estemporanea in aereo di ritorno dal Brasile, e ha detto: qualunque cosa si voglia fare dello IOR, l'importante è che si faccia, lo ha detto molto chiaramente, all'insegna della totale trasparenza. Allora, anche questa è un'iniziativa, Carlo, in questa direzione. Qual è il valore, l'importanza di aver portato su internet appunto lo IOR? Anzitutto una piccola precisazione, ancora su internet, cliccando l'indirizzo non appare questa pagina. Faccio subito, adesso perché vado subito a curiosare, hai fatto bene a dirlo. No, l'ho preciso perché tre minuti fa, prima che mi chiamassi, ho ricontrollato e non c'era. Diciamo che ci sarà forse domani. Tutto ciò premesso, naturalmente c'è anche un tempismo curioso, perché mentre l'idea che appunto lo IOR aprisse un sito internet era già emersa, diciamo un mese o due fa, il tempismo è che l'hanno annunciato il giorno dopo il rientro del Papa dal viaggio, dove ha detto in aereo non solo la trasparenza, ma non sappiamo, il Papa ha detto qual è la decisione che prenderò sullo IOR, nel senso non ha escluso anche una chiusura. Naturalmente probabilmente non avverrà una chiusura, però ha detto non escludo nulla, perché io ne voglio fare una banca etica. Una banca etica, nel caso di quello che vuole il Papa, non è il rispetto delle regole della trasparenza della finanza internazionale. Lui per banca etica significa l'uso etico del denaro, non l'uso trasparente del medesimo. Ecco, questo è importante, perché mentre nel precedente pontificato il rispetto delle regole della finanza internazionale era considerato un fine, per questo Papa forse è a malapena un mezzo, ma non è certo un fine. Allora, questo è il tema. Allora, adesso, detto che appunto hai rilevato questa coincidenza del fatto che dopo aver auspicato un'azione di totale trasparenza, appunto esce immediatamente la notizia dell'attivazione del sito internet, diciamo. Esatto, che tipo di utilizzo ne intende fare di questo sito la Banca Vaticana? Credo che verranno proprio anche, come fanno tutte le società quotate, in questo caso non parliamo di un'azienda appunto quotata in borsa, ma in ogni caso ci sarà, credo, una pubblicazione periodica anche dei risultati di bilancio. Esattamente, il bilancio dello IOR, come lo statuto, ad oggi non era conosciuto all'esterno, cioè proprio lo conoscevano in pochi, e per la verità lo statuto tuttora lo conoscono in pochissimi. E il bilancio, io ho, perché frequento un po', insomma conosco persone dentro che me l'hanno dato, un bilancio diciamo in grandi, in somme linee, per esempio quello del 2012 ha realizzato un utile netto di 86 milioni, di cui circa 50 sono stati dati, anzi 50 sono stati dati al bilancio del Papa per la sua carità. Ci sono 6,3 miliardi di titoli in gestione, e il patrimonio complessivo è di 7,1 miliardi, di cui 800 milioni di patrimonio proprio, ecco, mezzi propri. Queste sono cifre, ve le ho date praticamente tutte. No, guarda, c'è anche quella interessante del numero dei conti correnti aperti, del numero dei clienti. Esatto. Sono 18.000, quasi 19.000, di cui 13.000 posizioni aperte, più che conti, cioè i soggetti, di cui 5.200 le istituzioni, quindi posso dire i gesuiti, i francescani, le suore, eccetera, eccetera, e 13.700 le persone fisiche. Tra queste persone fisiche ci sono i cardinali, i dipendenti o ex dipendenti del Vaticano, i diplomatici accreditati in Vaticano e altri soggetti che hanno appunto diritto a aprire il conto allo IOR. No, tra l'altro noto anche, viene rilevato credo dal collega Gerardo Graziola appunto, che ha scritto e ha riportato questi tuoi stessi dati anche su Radio Core, che praticamente il numero delle posizioni aperte era oltre 21.000 alla fine del 2011, poi abbiamo avuto appunto un po' di calo, qualcuno evidentemente ha chiuso questo rapporto. Dico anche di più, negli ultimi due anni sono state chiuse 6.000, però diciamo, alla domanda che ci vengono fatte perché avete chiuso queste 6.000 posizioni, non è che sono tutte posizioni diciamo di trafficanti di denaro sporco o cose di questo tipo, ci sono anche semplicemente delle posizioni che vengono chiuse perché magari persone che si sono trasferite non hanno chiuso il conto, magari una guardia svizzera che lavorava al Vaticano aveva aperto un conto lì perché, che ne so, accreditava lì lo stipendio, poi magari si è messa a fare un altro lavoro e ha chiuso il rapporto, ecco, quindi diciamo c'è di tutto, come in una banca certo, normale i conti, esatto, però ecco, diciamo che per aprire un rapporto allo IOR ci sono dei standard molto severi, come ha precisato nel saluto ai lettori anche von Freiberg, che ha ricordato che in banca stanno continuando questa revisione totale dei conti appunto con i nostri clienti, con l'obiettivo di fare anche lì azione di pulizia. Assolutamente, circa 1.000 conti al mese vengono controllati da questa società esterna americana che si chiama Promontory, assoldata circa 2 mesi fa dallo IOR, che di fatto gestisce lo IOR, perché dopo il licenziamento, il dimissionamento dei vertici operativi, di fatto con gli uomini operativi sono tutti di questa società americana, assoldata da von Freiberg, quindi dal presidente, e diciamo gestiscono la revisione di ogni conto, e se vengono rilevate delle irregolarità, sia per la titolarità di avere un conto lì, se ce l'avessimo per esempio io o te, non avremmo diciamo così il diritto ad averlo, anche se magari non commettiamo nessun illecito, oppure peggio ancora se ci sono dei conti diciamo il cui transito è sospetto, allora a quel punto vengono trasmessi all'autorità di informazione finanziaria, che è questo organismo di controllo interno, che a sua volta prende provvedimenti sia con gli stati corrispondenti che in altro modo. Loro stessi possono chiudere un conto. Siamo molto curiosi di appunto monitorare, lo faremo con costanza appunto, questa operazione di trasparenza della Banca Vaticana. Un'ultima cosa, Carlo, poi ti lasciamo, ma questo non riguarda l'attività della Banca Vaticana, dello IOR. Oggi Papa Francesco ha rimosso i vertici della Chiesa Cattolica Slovena per dissesto finanziario. Sì, esatto, quella è una diocesi che aveva avuto un dissesto finanziario, ma già da tempo. In Slovenia ci sono stati due mi pare, i rimossi, diciamo, sì. Interessati, rimossi, quello di Maribor e quello di Lubiana. Esattamente, Lubiana ce n'è un terzo addirittura in Africa, nella capitale del Camerun, a Yaoundé, notizia che è tra ieri e oggi. Queste diocesi, il dissesto va avanti da tempo, era stato in qualche modo chiesto di risolvere la questione e evidentemente non è stata affrontata con il dovuto modo. E a gamba tesa Papa Francesco ci ha pensato lui. Grazie Carlo per essere stato con noi, so che grazie tra l'altro voi, abbiamo disturbato, una bella giornata di vacanza e comunque lo stesso ha avuto aiutarci a capire queste novità. Intanto Focus Economia termina anche questa sera, grazie a Mauro Del Corno per la collaborazione in redazione, Pietro Lacorte in assistenza tecnica. Noi torniamo, io torno domani a Salvadanaio come sempre alle 12, anche domani sera Focus Economia. Da Deborah Rosciani, buona serata a tutti. Radio 24, la passione si sente.